Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Il curato fece la sua comparsa sulla porta. Era un uomo imponente, alto, massiccio e irsuto, con neri capelli ispidi scompigliati, folte sopracciglia e un mento pronunciato, velato da una barba rugosa. I capelli pendevano dalle spalle robuste, dal collare usciva un collo pesante e muscoloso. Stephanie lo presentò, nervosa. Daniel Orton, curato del signor Allenby, della chiesa di San Bartolomeo di Blatchford. Daniel Orton abbracciò con lo sguardo la compagnia riunita e con una voce calda, che forse era semplicemente consuetudine clericale a cercare di mettere le persone a proprio agio, chiese se poteva sedersi. Aveva l'accento marcato dello Yorkshire industriale del sud, meno musicale di quello settentrionale di Winifred. «Se si tratta di una visita pastorale», disse Bill, «devo informarla che è il posto sbagliato. Nessuno di noi va in chiesa». Il curato non reagì. Disse solo che voleva parlare un momento con Stephanie, la signorina Potter, se era possibile. Aveva promesso alla piccola Julie in canonica che sarebbe passato a vedere come stavano i gattini. Si sedette sull'altra metà del divano di Frederica, come se avesse istintivamente individuato la scatola. Vi sbirciò dentro. «Non stanno male», disse Stephanie, «ma è presto per dirlo». «È evidente che la bambina si sente responsabile», disse Daniel Orton. «Spero che riesca a salvarli». «La prego, non alimenti le speranze della bambina e non faccia troppo affidamento su di me. Non sono soltanto orfani, sono prematuri. A dire il vero è un'impresa disperata». «Ha ragione, bisogna sempre dire la verità. Sono passato anche perché non ho avuto il tempo di dirle che è stata meravigliosa con quella bambina. Ci tenevo a dirglielo». Bill fu pronto a intromettersi e repressivo. «Ne sappiamo già abbastanza della storia dei gatti. Grazie». La grossa testa scura di Daniel si girò appena nella direzione da cui era giunta l'obiezione, come per valutarne il peso. Poi si girò di nuovo verso Stephanie. «Mi chiedevo se fosse possibile coinvolgerla in una parte del mio lavoro. Lei è stata così gentile nell'esprimere interesse per come lo svolgo. Sono costretto a essere insistente, altrimenti non arrivo da nessuna parte, e c'è qualcosa per cui credo che lei sarebbe la persona giusta per dare una mano. Solo un'intuizione. Mi chiedevo un'altra volta, magari...» Vi sbigliò Stephanie, arrossendo fino ai capelli, occhi bassi, quasi inudibile. «Forse sono venuto nel momento sbagliato. Sei così, mi scuso». Alexander guardò l'orologio. I Potter, il curato. «È venuto nel posto sbagliato», intervenne di nuovo Bill, «se in questa casa pensa di trovare qualcuno che l'aiuti nel suo lavoro. Per quanto mi riguarda, l'istituzione che lei rappresenta è una sentina di menzogne e falsi valori, e non intendo averci nulla a che fare». «Questo si chiama parlar chiaro», rispose Daniel. «Vivo in una cultura le cui istituzioni e reazioni morali sconsiderate derivano da un'ideologia basata su una leggenda storica della cui fondatezza non esiste prova, e sulle prediche di un bigotto come San Paolo che detestava la vita. Ma ci sforziamo di sopportarlo. Siamo tutti rispettosi nei confronti della Chiesa. Non ci interroghiamo mai su quali verità potremmo scoprire se la spazzassimo via». Bill aveva lo sguardo torvo, stava dicendo quello che ripeteva spesso, ma che quasi mai aveva occasione di dire a un ecclesiastico. «Non le sto chiedendo di venire in chiesa. Sono venuto a chiedere alla signorina Potter di darmi una mano in un certo progetto». «Invece dovrebbe chiedermi di venire in chiesa. È proprio questo il punto. Se fosse sicuro delle sue convinzioni. Tutto ciò è defunto, peggio, svuotato». «Ho le mie convinzioni», stringendo le grosse ginocchia con le mani poderose. «Oh, lo so! Un solo Dio, creatore del cielo e della terra, e via dicendo, fino alla comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione dei morti e la vita eterna. Ma ci crede davvero nel paradiso e nell'inferno? È importante quello in cui crediamo». «Credo nel paradiso e nell'inferno. Città d'oro, cherubini e serafini, squilli di tromba, fiumi di perle, l'abisso ardente, artigli e ali di cuoio, il sentiero di rose che conduce al fuoco di gioie eterne e tutto il resto? Oppure cosa? Un'intelligente versione moderna secondo la quale ciascuno ha in se stesso il proprio inferno perpetuo? Sono molto interessato agli uomini di chiesa moderni. Più di me, a quanto pare, rispose Daniel. E perché? Perché la vita della comunità è una menzogna. Perché è tormentata, sebbene la maggior parte di questi spiriti tormentati non ne sia cosciente, dalle immagini malsane, corrotte che propinate loro. Un cadavere inchiodato a due assi di legno. Immagini spettacolari e false di fiamme e alberi di melo. Perché se la prende con me? C'è più verità nel Re Lir, perché penso io che tutti i Vangeli messi insieme. Io voglio che la gente viva e se la goda, signor Orton. Lei è d'intralcio. Capisco, assentì Daniel. Non ho letto Re Lir. Non era obbligatorio alle superiori quando le ho frequentate. Rimedierò. Adesso me ne torno a casa, se non le dispiace. Non sono il tipo di ecclesiastico che ama discutere, né un predicatore. E lei mi sta facendo un po' arrabbiare. Non puoi esprimerti così, papà, intervenne improvvisamente Stephanie. Lui mette in pratica ciò che tu predichi. Ho visto quello che fa negli ospedali e in posti dove tu, con tutto il tuo parlare di esperienza, non andresti mai. Conosce Re Lir, anche se non l'ha letto. Scommetto che io conosco meglio la mia Bibbia. Ci scommetto anch'io, disse Stephanie. Ma se sia un punto a favore tuo o suo, lo lascio giudicare a lui. Voglia scusarci, signor Orton. Allora ne riparleremo in un'occasione più adatta, disse Daniel a Stephanie. Anche lui, come i Potter, era di una testardaggine ossessiva. Non le prometto nulla, ma ne riparleremo. Ammiro moltissimo il suo lavoro, signor Orton. Adesso vado. Alexander guardò di nuovo l'orologio e disse che sarebbe andato via anche lui. Uscirono insieme nella strada deserta e mantennero un silenzio vagamente solidale. «Quell'uomo deve essere pazzo», cominciò a dire Daniel Orton. «Non ho fatto niente. Il buffo è che Bill Potter è un credente e uno stimato predicatore nato nell'epoca sbagliata, in rivolta contro la sua stessa educazione. Oh, vale lo stesso per me, al rovescio». Dovrei simpatizzare con lui. Invece no, ma non ha importanza. Io non sono un grande predicatore. Parole, parole. E le parole sono il suo mestiere. Che se le tenga. Non ha grazia. Dal tono non si capiva se la sua critica fosse teologica, estetica o altro. Tese ad Alexander una grossa mano e si allontanò, senza dubbio, con grazia, disinvolto e scattante, in direzione della città. Alexander si affrettò nella direzione opposta. Come tutte le persone troppo ansiose per reggere al supplizio di arrivare in anticipo agli appuntamenti, faceva tardi di proposito. Si mise a correre. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me get what I want this time. Nei sobborghi di Blessford, dove prefabbricati e orti miserabili si spingevano fino in aperta campagna, Alexander, sempre di corsa, raggiunse Castle Manor. Il castello sulla collina, che per un breve periodo aveva ospitato lo sconfitto Riccardo II, era ormai un guscio di pietra intorno a gibbosità spelacchiate e montagnole con l'ambigua e rigonfia parvenza di tumuli funerari. Insegne di ferro indicavano l'ubicazione di pozzi prosciugati, strutture difensive svanite, fondamenta di camere. All'esterno di quell'ordinato abbandono c'era un pezzo di terra desolata, un tempo campo d'addestramento ufficiali, con un semicerchio di baracche mal ridotte. Non c'era più l'asta per la bandiera nell'apposito buco nel cemento, nessun automezzo nell'apposito parcheggio. Quel luogo mostrava di aver subito in passato un assedio vittorioso. attraverso le porte pencolanti, emanava dalle baracche un lezzo persistente di urina rancida. In una di esse, una lunga serie di lavabi e urinali era stata fatta a pezzi e insozzata di proposito. I frequentatori abituali erano lì, constatò Alexander. Al suo passaggio, un cerchio di ragazzi sudici sollevò il capo dal riverbero dei fiammiferi protetto dal palmo della mano. Nel vano di una porta, un crocchio di ragazze bisbigliava e strillava, tenendosi a braccetto. La più grande, esile e provocante, sui 13 anni, lo fissava insolente. Indossava un vestito a fiori di seta artificiale dall'orlo sbilenco e i capelli raccolti in una scarpettina rossa. Un mozzicone di sigaretta luccicava e impallidiva in un angolo della sua bocca imbronciata. Alexander accennò un saluto precipitoso e maldestro. Immaginava che sapessero benissimo per quale ragione lui o chiunque altro si recassero a Castle Mound. La vide, oltre la recinzione metallica, che si allontanava da lui di buon passo attraverso l'unico campo tra cardi e sterco di mucca. Aveva le mani affondate nelle tasche dell'impermeabile blu, il cui spacco si apriva come un cono rigido sopra le caviglie sottili e i piccoli piedi. La testa, fiera nel fazzoletto di cotone rosso, era abbassata. Terribilmente emozionato, Alexander la rincorse. Sotto gli alberi del boschetto la raggiunse e la baciò. «Amore mio», disse Alexander, «amore mio. Guarda che non posso restare. Ho lasciato Thomas che dormiva. Non dovrei correre simili rischi. Devo tornare a casa. Tesoro, ho fatto tardi. Mi preoccupa talmente l'idea di arrivare in anticipo e agitarmi che mi costringo a far tardi. Meno male che a uno dei due non succede». Di preoccuparsi, voglio dire. Tuttavia gli prese la mano. Tremavano entrambi. L'euforia di qualche ora prima era tornata. «Una buona giornata?» gli chiese secca e nervosa. «Una giornata meravigliosa. Jenny, ascolta», le raccontò del dramma. Lei lo ascoltava in silenzio. Alexander sentì la propria voce affievolirsi. «Jenny, sono molto contenta. Beh, naturale che sono contenta». Cercò di ritrarre la mano. Quella piccola resistenza lo estasiava. Il problema, o piuttosto il piacere, era che Alexander ne era completamente sedotto. Se lei era di cattivo umore, come accadeva spesso, i suoi scatti di collera, trattenuti a fatica, lo riempivano di un piacere intenso. Se distoglieva lo sguardo furiosa, ne contemplava estasiato l'orecchio e i muscoli del collo. I sentimenti di Alexander erano assurdamente elementari e persistenti. Una volta, quando aveva cercato di spiegarglieli, lei era andata su tutte le furie. Adesso doveva fare qualcosa. Le afferrò il polso. Si era di nuovo messa la mano in tasca. «Sei arrabbiata. Scusa se ho fatto tardi. Non ha importanza. Sapevo che saresti arrivata in ritardo. Sono egoista, lo so. Se la commedia sarà un successo, e lo sarà, ti vedrò sempre meno. E se sarà più successo, te ne andrai per sempre. Se fossi in te, io non direi sciocchezze. Potrei fare qualche soldo. Se avessi qualche soldo, mi comprerei una macchina. Oh, parli sempre come se una macchina potesse trasfigurare tutto. Una macchina cambierebbe le cose. Non puoi tanto. Potremmo scappare. Dove? Per quanto tempo? Tutto questo non ha senso. Jenny, potresti avere una parte nel mio dramma». Quella della macchina era una litania. «E allora potremmo vederci tutti i giorni. Sarebbe come stato all'inizio». «Davvero?» rispose lei fermandosi e stringendosi a lui, e Alexander si sentì girare la testa. «Noi viviamo un perpetuo inizio. Faremo meglio a piantarla. Noi ci amiamo. Eravamo d'accordo. Dobbiamo prendere quel poco che possiamo». Finiva sempre così. Il bosco del castello ai piedi della collina era assediato dai nuovi edifici e affollato. Alexander e Jenny avevano scoperto presto dove sedersi senza essere visti. Spesso i loro nascondigli mostravano i segni di precedenti visitatori. C'erano occasioni, quando ancora durava l'iniziale avventatezza, in cui trovavano tutto ciò divertente e il loro amore trasformava in nuova materia di interesse foglie avvizzite e fazzoletti macchiati di rossetto. Una volta Jenny scovò un preservativo dentro una lattina di fagioli semivuota. «Surrogato di felicità domestica», fu il suo educato commento, mentre Alexander la gettava al di là di un cespuglio e replicava: un rito di infertilità, tutto sommato. Fagioli lessi e un seme intercettato. E scoppiarono a ridere tutti e due. Alexander scostò un giornale stracciato e fece sistemare Jenny in un avvallamento con le spalle contro un albero. Con il braccio sinistro la strinse a sé, mentre con il destro prese a slacciarle i vestiti. Lei gli mise una mano sulla gamba. Immagino sempre che schiere di ragazzini spuntino all'improvviso dai rovi. Questo bosco sembra sempre pieno di ragazzini che mettono il naso dappertutto. Sei ossessionata dai maschi. Lo so, è terribile. Non immaginavo che sarei arrivata a detestarli. Povero piccolo Thomas, crescerà e diventerà come loro. Non permetterò che frequenti Blessford Ride con una borsa di studio, ostracizzato come il piccolo Potter. Credi che lo sia? Le aveva già sbottonato impermeabile e cardigan, li aprì e si dedicò alla gonna. Sì, sta sempre da solo. Credo ci sia qualcosa che non va in quel ragazzo. L'altro giorno l'ho visto correre su e giù come un coniglio in tutte le direzioni, senza motivo, tutto solo nel campo lontano. Poi si è sdraiato per terra. Alexander le denudò le spalle e il seno. Le scostò di dosso i vestiti. Lei restava seduta, immobile come una statua. Lui sospirò e le appoggiò il viso sul seno. Jenny rabbrividì. Alexander, ti piacciono i ragazzini? No, voglio sapere se ti piacciono. Credi che sia un pederasta? Tutte le mogli sospettano che gli insegnanti scapoli siano pederasti. Con il viso accarezzava soddisfatto la pelle che aveva denudato. No, mi piace insegnare ai ragazzini, non toccarli. Non ho mai provato il desiderio di buttarmi addosso a uno di loro. Niente di simile. Con la testa comodamente appoggiata sul seno di lei, pensò che non aveva mai sentito il desiderio incontrollabile di toccare nessuno. Non ricordava una sola occasione in cui non avesse volentieri evitato ogni contatto fisico. Ciò che voleva, ciò che davvero voleva, non si poteva dire. Invece disse: «Perché sono così felice, quando dovrei sentirmi terribilmente frustrato?» «Già, perché?» «Se avessi un posto, un letto, non credere che esiterei. Non so se lo faresti. Temo che non lo scoprirò mai.» Alexander rivolse l'attenzione alle cosce di lei. Sfiorò la carne fresca e soda tra le calze lisce e tese e il reggicalze. Fece scorrere la punta delle dita sulle giarrettiere, sulle bande elastiche. Infilò le dita divaricate sotto il bordo tagliente delle mutandine fino alle pieghe morbide, la peluria ispida, il tepore. Lei sospirò, si appoggiò al tronco dell'albero, gli posò una mano sul petto. «Non muoverti. Non muovere un muscolo», la implorava Alexander dentro di sé, facendo guizzare le dita silenziose. I corpi vestiti lo rapivano, gli strati incrociati, la varietà di liscio, solido, teso, fluido. Devono esistere tanti modi di fare l'amore quante sono le persone. Quello che piaceva a lui era un graduale aumento di intensità fino quasi a raggiungere l'immobilità. Sarebbe stato possibilissimo prenderla lì, nel bosco. Sotto un cappotto o un plaid i rischi di essere scoperti sarebbero stati poco maggiori dei rischi che correvano adesso. Era convinto che fosse una riluttanza estetica la sua. Prenderla con forza. Prenderla con la forza, tra abiti sgualciti arruffati, rami rotti, tronchi di faggio appiccicosi, forme diverse di umidità, così rudemente forzata. Era un po' strano che, pur supponendo che la signora fosse consenziente, lui la considerasse ancora una violazione. Era senz'altro un po' strano. Viveva in un mondo tutto suo. Continuò a farla vibrare, tenendola ferma e aperta, e pensò, come sempre accadeva in simili circostanze, a Elliot. La voce inviolabile. Ebbe un attimo di panico. Non avrebbe mai posseduto una voce sua propria. C'era un verso o forse il suo, con una sottile eco moderno rinascimentale di Ovidio, che doveva cambiare, doveva ricordarsi di cambiarla. Quella dannata cadenza era certamente di Elliot. Jennifer scaricò una raffica di parole nei suoi pensieri. «Caro Alexander, devo andare, devo assolutamente tornare da Thomas, e ho le natiche tutte intorpidite.» Alexander disse che non sentiva più o quasi più l'anca su cui si appoggiava e il polso era completamente anchilosato. Guardò Jenny. C'erano grosse lacrime nei suoi occhi. Prese il fazzoletto e in silenzio gliele asciugò. «C'è qualcosa che non va?» «No, semplicemente tutto. Ti amo. Ti amo.» La rassettò, rimettendo al riparo i seni bianchi. Con zelo le abbottonò la camicia, il cardigan, il soprabito, raddrizzò la cucitura di una calza, le ripulì la gonna. Tirarono fuori le agende, progettarono di vedersi ancora, promisero di scriversi. Poi, come faceva sempre, lei si avviò quasi di corsa, senza voltarsi. Le dava sempre 15 minuti di vantaggio. Donne innamorate. Le due sorelle sedevano accanto alla stufetta elettrica di Stephanie. Stephanie iniettava il latte, goccia a goccia, nella gola dei gattini, sempre più inzuppati, ma ancora vivi. Indossava un pigiama da uomo a righe, piuttosto ampio, dentro il quale il suo corpo rotondo appariva informe ed elusivamente voluminoso. Frederica sfoggiava una lunga camicia da notte bianca, con ampie maniche, e uno sprone di broderie anglaise filettato con un nastrino nero. Le piaceva immaginare che quell'indumento le scivolasse sul corpo in pieghe di raffinata batista bianca. Invece era di nylon, l'unico tipo di camicia da notte che si poteva comprare a Blessford e a Calverley, a parte quelle di Rayon Lucido e Pacchiano. E non scivolava affatto, aderiva alle membra sottili e nodose di Frederica, che ne detestava la viscosità. Si lasciava sedurre sempre con troppa facilità, quando si comprava qualcosa, da un'idea platonica di indumento. Disponendo del denaro necessario, avrebbe avuto l'istinto per la qualità dei tessuti della gente dello Yorkshire. Poiché non ne disponeva, rifiutava di mostrarsi accorta su cose scadenti. Parlavano di Alexander e della loro vita. Non c'era rivalità, soltanto un'insolita complicità nel loro amore per lui, probabilmente perché entrambe erano convinte che fosse un amore senza speranza. Nel caso di Frederica, l'assenza di speranza sembrava transitoria. Non poteva aspettarsi che notasse le glorie della sua mente e del suo corpo, non ancora, dal momento che l'una e l'altro erano oscurati dalla severità repellente della divisa, delle consuetudini e degli orizzonti intellettuali del liceo femminile di Blessford. Era più difficile capire perché Stephanie fosse tanto sicura che il suo amore non avesse speranze. Alexander, in 5 anni, l'aveva vista diventare donna, eppure non l'aveva mai veramente vista. Inutile dunque sperare che lo facesse all'improvviso. L'idea che aveva di lui e che la pagava era quella di un uomo che non era mai stato toccato, remoto e puro. Visione simbolica di Alexander, condivisa dalle due sorelle ed elaborata durante le loro conversazioni. Un'altra buona ragione per condividere quella passione. Egli rappresentava le cose che non avevano e desideravano e che temevano che non avrebbero mai posseduto. L'arte opposta alla critica, la mobilità maschile opposta al radicamento provinciale femminile, il savoir-faire, l'eventualità di successo nella capitale. Passava dalle vacanze all'estero. Aveva amici che erano attori e docenti a Londra e Oxford. A differenza degli altri insegnanti, al termine di ogni semestre fuggiva nel mondo civile. Il matrimonio si rivelava evidentemente nocivo per i professori e anche peggiore per le mogli dei professori. Se per un verso lo amavano, per l'altro temevano l'effetto disastroso che avrebbe avuto su di lui l'amore per una di loro o per chiunque altra. Ripresero una conversazione precedente e l'approfondirono. «Era molto carino stasera.» Se l'è cavata egregiamente in mezzo a quelle urla, come sempre. Oh, non sarà così per molto, se ne andrà. Se ne andrà, Steph, e ci lascerà a questo buio. Credo anch'io. È restato così a lungo solo per starsene tranquillo e finire di scrivere. Con te parla di quello che scrive, con me no. Lo infastidisco. Non lo faccio apposta e lo eviterei volentieri. Magari il suo dramma è davvero buono. Riesci ad immaginarti cosa si prova a essere davvero grandi e saperlo? No, non ci riesco, è tremendo. Voglio dire, Steph, che Shakespeare lo sapeva senz'altro di essere diverso dagli altri. Lui non è Shakespeare. Questo non lo sai. Se mi prego, sono un finito. Forse Shakespeare non lo sapeva. Lo sapeva. Dentro di sé, Federica considerava una fatica terribile vivere con la consapevolezza di essere posseduta dalla forza e dalla determinazione di Federica Potter, soprattutto prima di aver deciso a cosa destinarla quella forza. L'indubbia superiorità di Alexander non sembrava dovuta essenzialmente alla forza. D'altro canto... Il tuo curato è stato brutale, Steph. Non è il mio curato, ma è stato spaventosamente brutale, questo sì. Dovresti vederlo all'opera. Non riesco a capire perché la maggior parte della gente si accontenti di così poco. Per me non sarà così. No, per te non sarà così. Perché non te ne vai di qui, Steph? Tu potresti. Credo che lo farò. Mi sto solo prendendo del tempo per riflettere. Chinò di nuovo la testa sui gattini. Non le andava di esaminare la questione in quel momento. Va a dormire, Federica. Mi tocca stare alzata tutta la notte. Ho bisogno di fare un sonnellino. Su, vai a dormire. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it